Care amiche, scusatemi, cari amici, di tanto in tanto capita che il mio microfono impazzisca, anzi meglio, le mie cuffie. Buonasera, benvenuti a tutti e a tutte. È martedì, siamo a questo primo martedì di luglio, salutiamo la presidenza cipriota. È la prima volta che i ciprioti mi pare abbiano la presidenza, correggimi George se sbaglio. Sì, e ancora non ho visto la cravatta, quindi devo cercare di capire. E forse loro non vogliono la cravatta. No, no, ce l'hanno, ma l'hanno distribuita, ma io oggi non ho partecipato a alcuna riunione, quindi ti manca la cravatta. Sì. Andrò alla fonte direttamente. Meglio, va così, almeno evitiamo. A Cipro. Gli facciamo ovviamente i nostri migliori auguri ai ciprioti, tra l'altro questa sarà una presidenza molto diversa dalle altre, saranno per lo più tutti gli incontri qui a Bruxelles o comunque in Belgio, quindi insomma per quanti avessero sperato di muoversi piuttosto per quella magnifica terra che è quella cipriota, pare che non sarà proprio così. Beh, anche perché è difficile andare a Cipro, ci vuole un giorno. Ci vuole un giorno, sì. A meno che uno non prenda Ryanair, che non è connessione diretta. Che però c'è non c'è tutto l'anno, mi pare di... Forse però in questo periodo dell'anno sì. Ma in questo periodo c'è, però insomma è stata una cosa divertente, nel senso che purtroppo loro sono legati dopo il fallimento della compagnia. Ma tu ce lo vedi, li vedi i vari presidenti della commissione del Parlamento volare sul Ryanair per andare a Cipro? Ma a me non dispiacerebbe vedere Ryanair, visto che non si può prenotare alcun posto, parlare quelli sulle ali, insomma, vedere incastrati con della gente che ho in mente, non si sarebbe un bel tuffo nella realtà. Comprare il gratta e vinci, eccetera. Un bel tuffo nella realtà. Perché no? Ma comunque sarà una presidenza ricca di eventi a quanto pare, quindi noi speriamo di poter partecipare. Fortunatamente hanno schivato di poco la decisione sullo spazio ferroviario unico, perché sarebbe stato difficile per chi non ha mai visto certo. Una ferrovia poter dire qualcosa in merito, però insomma questa ci ha scampato. Beh, tanti ciprioti sono emigrati in Inghilterra, quindi probabilmente avrebbero preso esempio dagli inglesi, chissà. Bene. Comunque si chiama, tu hai detto la ripeti un po', presidenza cipriota. Presidenza cipriota. Sì, in italiano si può dire, ma in inglese sappiamo tutti, si dice Cyprus, non Cypriot. Esatto. È l'unica lingua in cui si usa non l'aggettivo, ma il sostantivo vero e proprio. Beh, già che stavo parlando in italiano, non mi era venuto per il momento il collegamento con la bella lingua inglese. Bene, sì, prima di passare alla nostra trasmissione di questa sera, che toccherà un tema abbastanza importante, che poi ho scoperto essere tornato anche di attualità, quindi così insomma casualmente parleremo di qualcosa che ha trovato molto spazio anche nella stampa non solo italiana, ma in particolare di questi giorni su Repubblica, un reportage molto interessante che vi consiglio veramente di leggere, L'Europa Nera fa paura. Avrete già capito di che cosa stiamo parlando di questo dell'emergere ancora di alcuni movimenti di estrema destra che si dicono essere sicuramente non in favore dei valori europei, dei valori per i quali noi tutti ci troviamo qui a Bruxelles, per i quali lavoriamo, perché lavoriamo per la pace, lavoriamo affinché questa nostra società possa evolversi in maniera positiva, e a quanto pare, e questo non solo in Italia, ma la cartina è spaventosa su Repubblica, poi vi fa vedere un po' l'emergere di tutta una serie di cose, vedrete che questo è vero in Norvegia, è vero, tra l'altro gli eventi proprio in Norvegia di un anno fa hanno riportato sulla scena internazionale proprio ancora nuovamente questo argomento, che è un po' una miscela esplosiva fatta di anti-elitismo, anti-europeismo, anti-immigrazione. E questi sono temi di cui parleremo diversamente questa sera, perché abbiamo la possibilità di parlare con qualcuno che ha vissuto quello che è stato realmente il nazismo e il fascismo, di qualcuno che ha vissuto i campi di concentramento, in particolare quello di Auschwitz, e che poi per fortuna ne è uscito vivo, salvo. Probabilmente sono tra le poche persone che sono sopravvissute a quei drammatici eventi, e questa sera ci racconterà direttamente la sua esperienza. Tatiana l'avremo tra qualche momento al telefono, casualmente vive anche in Belgio, però insomma ci fa piacere parlare con lei di questa sua testimonianza. E proprio perché, insomma, facendo le ricerche e collegando anche quello che era l'argomento di questa sera, come dicevamo, abbiamo trovato una serie di articoli molto interessanti di cui parleremo anche con Tatiana stessa. Tant'è che c'è un articolo molto interessante, vi dico soltanto il titolo: Neonazisti tra reazione e nostalgia alla ricerca del colpevole della crisi. Come vedete che la storia quindi non è per nulla maestra, e che ci sono cose che si ripetono nonostante il benessere, nonostante la ricchezza, nonostante gli standard elevati di cui noi almeno oggi in Europa possiamo essere orgogliosi. Tatiana! Sì. Buonasera, benvenuta a Bruxellando, a Radio Alma. Grazie. Non so quanto sei riuscita ad ascoltare della breve introduzione. Ma che niente, le ultime parole. Le ultime parole. Allora, magari stavo semplicemente un po' cercando il legame tra la nostra conversazione di questa sera e con quanto ho ritrovato oggi proprio su Repubblica. Repubblica dedica anche ampio spazio proprio al tema del neonazismo, che a quanto pare sta riemergendo un po' dappertutto in Europa. E pensavo alla tua storia, alla storia che mi hai raccontato stamattina al telefono, e pensavo chissà che cosa ci racconterà proprio Tatiana questa sera a proposito di questo periodo storico che lei, così come sua sorella e la sua famiglia, hanno vissuto davvero in prima persona. Prima di passare però proprio al vivo dell'intervista, Tatiana, raccontaci brevemente di te, così sommariamente. Io sono nata, incominciamo da lì, sono nata a Fiume che adesso, io dico sempre purtroppo, si chiama Rijeka, è diventata Jugoslavia, poi adesso è Croazia, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con la mia famiglia ritrovata, ci siamo stabiliti a Trieste, poi dopo il matrimonio sono arrivata qui e abito a Bruxelles ben dal lontano 1964. Ah beh, però da tanto tempo! Sono arrivata che ero una giovane sposa e adesso sono una signora di una certa età, ho un'età certa, come si dice, ma sono felice di essere meravigliosi bambini. Allora, tu sei protagonista, tu e tua sorella, quindi tua sorella Andra, che salutiamo anche dai microfoni di Bruxellando, siete state protagoniste di una storia, direi, pressoché straordinaria, perché siete probabilmente tra le poche ad essere miracolosamente sopravvissute a quello che è stato lo sterminio dei campi di concentramento durante la Seconda Guerra. Tra i bambini sicuramente tra le pochissime. Andra, per esempio, in Italia è la più giovane sopravvissuta. Andra è la più giovane di te, sì, quindi? In Italia, sì, poi ci sono, certo, i bambini di altre nazionalità che sono sopravvissuti, ma alla fine della guerra, quando Birkenau è stata liberata dalle truppe russe, di bambini sotto i 10 anni saremmo stati una cinquantina più o meno. Quindi, insomma, e italiane noi due soltanto. Ah, quindi di quell'età così tenera età, insomma, calcolati i bambini, perché a partire dai 10 anni erano calcolati e sono tuttora calcolati, almeno per quello che riguarda gli storici, sono calcolati già adolescenti. Infatti tu sei stata deportata ad Auschwitz proprio nel marzo del 1943, quindi 44. Ah, 44. Sì, 44, perché le deportazioni in Italia sono incominciate il 16 ottobre del 43. Prima, giusto, è vero, sì. Partendo proprio dal ghetto di Roma, dove sono partiti circa 1000 persone, di queste 1000 sono ritornati, credo, un pugno di persone, pochissimi, dalla prima retata. Allora voi eravate piccolissimi, uso il plurale. Eravamo piccolissime, io avevo 6 anni e mezzo, mia sorella ne aveva 4 e mezzo, e abitavamo logicamente a Fiume, visto che siamo nate là, da mamma ebrea e papà cattolico, quindi c'era un matrimonio misto, e c'è stata una spiata. Questa persona poi, tra l'altro, aveva denunciato praticamente tutti gli ebrei di Fiume, per la comunità ebraica era una abbastanza, non so dirti quanti eravamo di ebrei, comunque era una bella comunità abbastanza importante. E da Fiume siamo stati portati alla restiera di San Sabba, dove abbiamo scorso un paio di giorni. Da lì ci hanno imbarcato su quei meravigliosi vagoni bestiame e siamo poi arrivate a Birkenau dopo un viaggio piuttosto molto disagiato, come potete immaginare. Assolutamente. Saremmo stati, non so, poco più di 60 penso in ogni vagone, adulti, bambini, vecchi, tutti assieme, con disagio per qualsiasi cosa, soprattutto per i bisogni fisiologici, perché non c'era niente, c'era una specie di secchio in un angolo del vagone. E quando parlo di questo penso soprattutto a mia nonna, che da persona anziana, ma insomma, poi anche insomma, doveva essere una cosa veramente penosa. Noi eravamo bambine, eravamo piccoline, non ci rendevamo bene assolutamente che stava succedendo, ma neanche gli adulti poi non sapevano dove si stava andando. Quanto tempo ha trascorso poi nel campo? Nel campo siamo arrivati i primi di aprile, perché ci hanno arrestato il 28 di marzo. Siamo arrivati i primi di aprile, il 4 di aprile siamo arrivati a Birkenau, ed è il 44, e siamo state liberate il 27 gennaio del 45. Quindi un periodo comunque molto lungo. Parecchio, poco meno di un anno, insomma, parecchio. Abbiamo avuto una gran fortuna di non ammalarci, perché avremmo potuto ammalarci, perché vivevamo nel freddo, avevamo sempre fame, quindi non era facile ammalarci, questo è chiaro. Tante persone sono morte perché si sono assolutamente morte, sì. Di freddo, di fame. Qual era la giornata tipo nel campo? Che cosa vi facevano fare voi bambini? Allora, noi bambini non facevamo assolutamente niente, eravamo lasciati a noi stessi, si girava anche un po' per il campo, perché di giorno il campo era vuoto, tutti gli adulti uscivano per andare a lavorare, noi bambini avevamo la nostra baracca nella parte del campo delle donne. Ma non c'era quasi nessuno nel campo, restava pochissima gente, e quindi noi eravamo abbastanza liberi di girare nella nostra baracca. Poi c'erano anche i maschietti, perché appunto eravamo bambini, quindi maschi e femmine eravamo nella stessa baracca. Ed era proprio una baracca, perché era una costruzione di legno, che adesso non esiste più, già dalla fine della guerra, essendo di legno l'avevano poi proprio tirata giù gli stessi polacchi, perché avevano bisogno di legno per riscaldarsi nelle case e cose del genere. Quello che resta della nostra baracca è il perimetro. Ecco. Eravamo lì, lasciate a noi stesse. È quello che ci ha salvato in un primo momento al nostro arrivo, per esempio, e questo poi l'abbiamo saputo anche da abbastanza di recente, il dottor, chiamiamolo dottore, Mengele, ci aveva preso per gemelle, ci assomigliavamo moltissimo, avevamo quasi la stessa statura. E ci aveva preso per gemelle, quindi non siamo state portate alla camera a gas subito, come succedeva alla maggior parte dei bambini quando arrivavano. Essendo gemelli poi non potevate... Perché i gemelli li teneva da parte per i suoi esperimenti. Noi per fortuna non ne abbiamo subito, forse dei documenti che sono stati trovati nell'archivio di Auschwitz, nel museo, risulta che ci hanno fatto dei prelievi probabilmente di sangue, però non abbiamo subito nessun esperimento. Ma di violenza, perché è una delle cose che pure insomma... Ah, sì, i gemelli erano proprio preposti a questo, proprio non ci sono dubbi. E quindi in un primo momento questa è stata la nostra salvezza. E poi per esempio c'è la storia di nostro cugino, che anche lui è stato salvato all'arrivo, e ce lo chiediamo spesso, perché forse, siccome sembra che Mengele fosse molto sensibile alla bellezza, e nostro cugino era un bel bambino tipicamente meridionale, perché era di suo papà era napoletano, e anche lui era di un matrimonio, figlio di un matrimonio misto, forse l'ha tenuto in vita perché era un bel bambino, chi lo sa. Ma non ci sono molte risposte a tante domande che uno si fa o ti fa, perché non c'è nessuna logica per tante cose. Comunque, per tornare alla storia di Sergio, c'era la capoblocco che noi chiamavamo Blokova, ma non era la nostra, era un blocco di donne lì vicino a noi, che ci aveva preso a ben volere, ci dava anche delle cose da vestire che uscivano dal Canada, forse ne avrete sentito parlare, era dove arrivavano tutte le valigie con i beni che le persone che entravano in campo si portavano dietro durante il viaggio, e queste valigie contenevano logicamente tante cose anche belle, e che ogni tanto uscivano anche dal Canada a rischio, anche perché non era una cosa facile, e la Blokova ci dava queste cose così. Avevo delle bellissime magliette di Angora, mi ricordo, per esempio. Tra l'altro ci sono varie curiosità che ho potuto rinvenire, che in quel periodo parlavate diverse lingue, parlavate il tedesco. Cioè, in quel periodo in campo abbiamo incominciato a parlare il tedesco, non lo so come, comunque l'abbiamo imparato il tedesco, e noi due continuavamo comunque a parlare l'italiano tra di noi. E le altre lingue sono venute poi dopo, è venuto il cecoslovacco e poi l'inglese, ma questo era poi più tardi alla liberazione, perché quando nostro cugino Sergio con gli altri 19 bambini è stato portato via per andare in un campo di concentramento ad Amburgo, dove questi bambini erano aspettati da un medico che doveva fare degli esperimenti su di loro, le Blokove sapevano tante cose di quello che succedeva nel campo, e comunque sapeva che avrebbero preso 20 bambini, 10 maschi e 10 femmine, e disse a me di non accettare, perché hanno fatto, come dire, una domanda subdola, ci hanno chiesto chi vuole raggiungere la mamma, e allora 20 bambini, avevano proprio bisogno di 20, ma se no avrebbero sicuramente scelto nel gruppo, hanno fatto questo famoso passo avanti e sono stati portati via. E appunto la Blokova invece ci ha detto: no, voi dovete stare fermi, dovete rifiutare questa offerta, senza darci spiegazioni ulteriori. Sono cose che mi ricordo bene, anche se non ricordo la faccia di questa signora. E mia sorella, che era sempre appiccicata a me, e disse di no. Noi cercammo di parlare al nostro cugino, ma lui non volle ascoltarci e purtroppo se ne andò con questi bambini. E poi quando arrivarono lì a Noiengamme subirono veramente degli esperimenti terribili, anche senza anestesia, senza niente, proprio furono trattati peggio di animali. E quando poi gli alleati stavano arrivando già in Amburgo, perché la guerra era praticamente finita, era il 20 di aprile, presero questi bambini dal campo di Noiengamme e li portarono in una scuola di Amburgo, che si chiama Bullenhuser Dam, adesso il sotterraneo e le cantine dove avvenne questa tragica, questo omicidio, come, non so come, questa tragedia, insomma, è stato trasformato in un museo. Portarono lì questi bambini assieme alle persone che si erano occupate di loro, insomma, per i prigionieri anche loro, medici e infermieri di varie nazionalità, so che c'era un medico francese, degli infermieri russi, e furono appesi a dei ganci del macellaio impiccati, storditi prima, e poi qualcuno era così leggero che dovettero tirarlo per i piedi perché è una cosa atroce. Sono storie effettivamente atroci che raccontate anche a quelli che sono i nostri giovani di oggi. Effettivamente forse lo stesso messaggio non riesce a passare, però crediamo qui noi di Bruxellando, di Radio Alma, comunque che sia importante ricordare quello che è stato, proprio come testimonianza e speranza che questo non possa accadere in nessun modo. Tra l'altro proprio su questo articolo, queste cose magari così come sono avvenute non succedono, io mi auguro che non succederanno, voglio sempre vedere le cose piuttosto positive, e io credo le deportazioni come quelle che abbiamo subito noi, io me le vedo male, anche se c'è un neonazismo, un neofascismo, non credo che potrà più succedere questo, succedono altre cose purtroppo. Assolutamente, questo è vero, insomma. Altri eccidi, altri genocidi, questo purtroppo sì, no? Non è servito a niente, la gente, non so, l'uomo purtroppo dimentica tante cose. E proprio per non dimenticare i superstiti come me continuiamo a testimoniare, a parlare, a raccontare, proprio perché cose del genere non succedano più. Quello che volevo dire, per esempio, che è anche una cosa che è riuscita a salvare mia sorella e io, quando la mamma, perché noi eravamo separati come tutti i bambini dalle mamme, non dormivamo nella stessa baracca. Quando poteva la mamma veniva a trovarci nel campo ed ebbe un'intuizione incredibile, ci diceva sempre, ci ricordava sempre il nostro nome, il nostro cognome, perché se no l'avremmo dimenticato, anche per quello che ci tatuavano, noi non dovevamo fare nessun appello, non dovevamo subire gli appelli, però gli adulti lo facevano mattina e sera e quando erano chiamati dovevano rispondere dicendo il loro numero tatuato sul braccio sinistro in tedesco. Quindi per un bambino che non era mai chiamato con il suo nome, non eravamo però neanche chiamati con il nostro numero per quello che mi ricordo, è facile dimenticare il nome. Infatti io, per esempio, tutti mi chiamano Tatiana, il mio secondo nome è Tatiano, però mamma mi ricordava ti chiami Liliana Bucci. Ah, Liliana. Perché il mio primo nome sui miei documenti risulto Liliana, tanto che avevo dimenticato di chiamarmi Tatiana. Ho ripreso a chiamarmi Tatiana dopo il rientro in Italia, quindi quello che sto dicendo, che è facile per un bambino dimenticare il proprio nome e cognome, lo posso proprio dire perché avevo dimenticato di chiamarmi Tatiana. A proposito, questo mi sembra essere comunque anche un esempio, diciamo, veramente carino da ricordare, ma c'è un ricordo che è rimasto indelebile? Un ricordo che magari vuoi condividere? Un ricordo indelebile di sì, qualcosa quando, che... Quando penso a Birkenau la prima cosa che vedo? Sì. Per esempio è il camino, che dico sempre sputa fiamme e fumo notte e giorno, perché noi da dove eravamo noi lo vedevamo, anzi ce n'erano due di camini a un certo momento. Però dalla parte del nostro campo mi hanno spiegato se ne vedeva uno solo, e questo qui era sempre, praticamente lavorava sempre, faceva parte del crematorio, perché le persone venivano prima gasate e poi le cremavano. Questa è un'usanza molto, molto nordica, insomma. E di sicuro immagino che ci sia quello, lo vedo proprio chiaramente, e senza che nessuno me l'avesse detto, forse perché l'avevo sentito appunto dalle Blokhove quando parlavano tra di loro, sapevo che da lì si usciva, insomma, ecco, per dire, proprio in modo che mi fa un certo effetto, pensavo. Immagino. Invece, cosa ha significato per te tornare a casa? Quella è anche ancora un'altra storia, perché alla fine della guerra sono venuti i russi, dopo un paio di mesi che siamo rimasti ancora in Polonia, ci hanno portato a Praga con altri tre bambini che erano con noi proprio nella nostra stessa baracca, due gemelle, una coppia di gemelle, erano, sono ancora vive tra l'altro, cecoslovacche, e un ragazzo che aveva 10 anni, che vive in Israele adesso, tedesco, e ci hanno portato in un centro di raccolta a Praga. E a Praga, e lì c'erano bambini comunque anche, di ebrei eravamo solo noi 5, gli altri erano tutti bambini, io penso orfani, probabilmente cecoslovacchi o anche forse anche bambini tedeschi, non lo so, comunque eravamo parecchi bambini, e lì siamo rimasti quasi un anno a Praga. Ci hanno portato a scuola, frequentavamo la scuola e abbiamo imparato il ceco. E eravamo le uniche due italiane, mia sorella ed io, e abbiamo dimenticato la nostra lingua. E dopo dopo quasi un anno che eravamo lì, ci hanno chiesto chi tra di noi era ebreo, e noi 5 praticamente ci siamo dichiarati tale, e ci hanno imbarcato su un aereo militare e ci hanno portato in Inghilterra. E siamo arrivati in un paesetto meraviglioso del Surrey che si chiama Lingfield. Siamo arrivati lì che era più o meno sera, e la prima cosa che le persone che ci hanno accolto erano tutte donne ebree, tedesche, che avevano lasciato la Germania già molto prima della seconda guerra, quando hanno incominciato tutte le persecuzioni contro gli ebrei e si erano rifugiate appunto in Inghilterra. E questa casa dove eravamo ospiti insieme a tanti altri bambini poi era stata messa a disposizione da Sir Benjamin Jake, che era un ebreo inglese, e appunto l'aveva messa a disposizione ai bambini che erano riusciti a salvarsi dall'olocausto. E raccontaci come viene invece l'incontro con la tua famiglia. L'incontro con la mia famiglia è stato anche una piccola, direi, tragedia. Perché quando la mamma e papà ritornò anche lei, noi la pensavamo morta purtroppo, perché non venne più a trovarci quando eravamo nel campo, quindi per noi la mamma era morta, perché la morte ci circondava, noi vedevamo cadaveri tutti i giorni, quindi era diciamo che era normale che mamma fosse morta, visto che non la vedevamo più. Invece per fortuna era semplicemente stata portata in un altro campo in Germania, era un campo di lavoro dove aveva lavorato in una fabbrica di munizioni. E tornata a casa, papà era tornato anche lui perché era stato fatto prigioniero in Africa, papà era marittimo, si trovava laggiù quando scoppiò la guerra, fu fatto prigioniero dagli inglesi, comunque alla fine della guerra tornò anche lui. Si incontrarono e logicamente si misero alla nostra ricerca, con l'aiuto della Croce Rossa riuscirono a trovarci lì nel posto dove ci trovavamo, incominciarono a fare logicamente una lunga corrispondenza, non credevano che loro fossero i nostri genitori, perché noi quando abbiamo state interrogate al nostro arrivo, avevamo detto che erano morti, e poteva essere benissimo che lo fossero, E allora, per provare che erano proprio loro, perché anche questa è una cosa molto importante che aveva fatto la mamma mandò la loro foto, una loro fotografia che li ritraeva il giorno del loro matrimonio. E questa foto per noi era proprio indelebile, perché mamma, prima di metterci a letto, ci portava vicino a questa foto per dare la buonanotte, il bacio della buonanotte a papà, che non era con noi. Che voi chiamavate la foto della buonanotte, giusto? Sì, sì, perché insomma era una cosa normale, no? Penso che in tante famiglie succedano, possono succedere queste cose, soltanto che per noi è stata la salvezza, perché quando la direttrice del posto mi mostrò, prima a me, poi a mia sorella, mi mostrò questa foto, io dissi immediatamente: questi sono i mamma e papà. E Andra fece altrettanto, quindi poi incominciamo a corrispondere con mamma e papà, scrivavamo le nostre letterine in inglese e poi insomma fecero tutte le pratiche necessarie, rientrammo in Italia, mamma ci aspettava, siamo accompagnate da un assistente sociale che conoscevamo molto bene perché frequentava il posto dove stavamo, e mamma ci aspettava alla stazione a Roma, alla Tiburtina, ci aspettava lì assieme a quel po' di comunità ebraica che era rimasta o anche ritornata a Roma. E noi la nostra mamma l'abbiamo riconosciuta fisicamente, però l'abbiamo, come dire, rifiutata, avevamo, anche perché l'assistente, adesso penso che ci si comporterebbe in un altro modo sicuramente, l'assistente sociale cioè praticamente consegnata alla mamma e dopo poche parole se ne andò e ci lasciò lì. E per noi era come essere in una torre di Babele, perché tu, certo, non lo so se conosci i romani, sono cacciaroni insomma, no? Anche gli ebrei come tutti quanti, poi erano tutti felici di vedere queste due bambine che ritornano, che ritrovano la mamma e volevano sapere da noi se avevamo visto questo, quell'altro, se conosciamo, ci facevano nomi, ci mostravano fotografie, insomma era una cosa... per noi era una bolgia e non capivamo perché non parlavamo più l'italiano, e questo anche, certo, un grosso problema. Quindi in un primo momento la mamma l'abbiamo rifiutata, non la volevamo, volevamo andare via di nuovo con la nostra assistente sociale, ci siamo messe a piangere veramente come due disperate. Quanti anni avevate in quel momento? Senti una cosa, quando sono partita nel marzo del 44 avevo 6 anni e mezzo, ed era marzo, fine marzo 44, e sono ritornata in Italia il 6 dicembre del 46. Ah, comunque hanno trascorso due anni. Ho trascorso un bel po' di tempo. Due anni abbondanti, sì. Sì, ho trascorso un bel po' di tempo, quindi noi eravamo, e abbiamo vissuto tante cose straordinarie in quei mesi, no? In quei 2 anni. E quindi era anche logico che noi ci sentissimo abbandonate, ecco. Certo. Devo dire, abbandonate. Poi per fortuna con la mamma le cose si sono messe a posto abbastanza presto, mia mamma è sempre stata, io credo che è stata, ha sofferto moltissimo per questo nostro rifiuto, ma tutto questo l'ho capito molto tardi, perché quando si è bambini tante cose non si capiscono logicamente, però non ci ha mai forzato, ha lasciato che le cose arrivassero un po' alla volta da sole, difatti così è stato. Tatiana, il tempo in radio ahimè è tiranno e corre via velocemente, no, staremo qui per ore ad ascoltarti, e Avevamo detto in apertura proprio di queste cose che stanno accadendo oggi, riaccadendo in Europa. C'è un messaggio che vorresti magari, un messaggio conclusivo che vorresti... Capire gli altri, non rifiutarli subito soltanto perché sono diversi da noi, di religione, di colore di pelle, di usi, di usanze, costumi, di cercare di capirli, di capire le altre persone, ecco, è questo che posso trasmettere. Non mi piace dire, non so, la parola, adesso non, come dire, accettare gli altri, ecco, bisogna accettarci l'un l'altro, assolutamente, non possiamo fare discriminazioni soltanto per religione o io sono bianca, tu sei nera o cose del genere, assolutamente no. Non è sempre facile, questo lo so che non è sempre facile, perché non è sempre razzismo se qualche volta rifiutiamo qualche cosa. Assolutamente, certo. Bisogna... Pensando a quello che è stato, forse cercare di capire gli altri, assolutamente bisogna che lo facciamo tutti. Ecco, la parola che non mi piace è tollerare, perché tollerare secondo me può anche avere un significato negativo. Sono assolutamente d'accordo con te. Ecco, non trovo un'altra parola, un altro vocabolo che possa sostituirlo, ma ecco, bisogna capirci l'un l'altro. D'altronde l'integrazione è proprio quella, quando più culture riescono a coesistere pacificamente. Come si viveva anche una volta, insomma. Esatto, rispettando poi le esigenze dell'uno e dell'altro. Che qualche volta è anche una ricchezza. Assolutamente, cioè, proprio guarda, se vai su Repubblica e trovi questi diversi articoli, vedi come lo straniero venga visto addirittura come causa della crisi economica. Sì, invece sì, certo, sì, come l'ebreo, esatto, la guerra per la pubblicità che ne facevano, esatto, insomma non è la parola giusta, ma che ne facevano, era visto come la causa di tutti i mali. Assolutamente. E invece poi, pensando invece alla nostra Bruxelles, pensando a questa città multiculturale, multietnica, con tutti i suoi limiti, assolutamente, ci rendiamo conto proprio che l'apporto delle diverse comunità nel tempo, quelle italiane in primis e via via tutte le altre, hanno arricchito notevolmente sicuramente le usanze. Gli italiani che probabilmente siamo anche qui alla terza, anche alla quarta generazione oramai, sì. Magari siamo diventati anche noi razzisti con gli altri. Chissà, questo non... Sì, ma lo siamo diventati, in Italia purtroppo lo siamo, perché abbiamo dimenticato. E penso che tutti gli italiani conoscono qualcuno che è stato anche qui in Belgio come migrante, che erano trattati così male. Sì, questi sono i corsi e ricorsi storici. Ecco, bisognerebbe ricordarci un po' di tutte queste cose. E che non tutti leggono Repubblica o anche altri giornali che parlano di queste cose, o anche un buon libro, o anche una trasmissione radio, o anche una trasmissione televisiva in cui si parla seriamente di queste cose e non del Grande Fratello. Guardano quelle cose lì e purtroppo le cose interessanti vanno in terza, quarta serata. Si va a nanna quelle ore, no? Beh, per fortuna abbiamo Bruxellando che resta in prima serata tra le 20 alle 21. Primissima serata. Facciamo concorrenza al TG1, mi rendo conto, però. Benissimo. Tatiana, noi ti ringraziamo veramente di questa tua testimonianza veramente eccezionale e ti ringrazio di averne voluto parlare anche con noi, e vorrei invitarti sin da ora magari ad una puntata a gennaio, proprio in occasione della giornata della memoria. Intorno a quella data lì? Proprio no, lo so. Non ci siamo. Però? Non ci sono. Sono già... Cioè, magari noi l'anticipiamo. Sono presa da un anno all'altro dalla regione toscana, assieme a mia sorella. Però, insomma... O prima o dopo si può. Perfetto, fare. Benissimo. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo delle splendide vacanze. Grazie, e altrettanto a voi. E sì. Speriamo quindi di risentirci presto. Senz'altro e buona continuazione. Grazie, arrivederci. Sì, ciao. E voilà. Siete sulle onde di Radio Alma e questo è librangolo. Così serio? Beh, insomma, dopo quello che abbiamo avuto non potevo che essere serio. Cioè, ma quindi anche io devo essere seria? No, è solo la sigla è in tono con quello che succede prima. Forse anche il librangolo, anche se non veramente, non trovo, non c'entra direttamente, sicuramente no. Però comunque vi parlerò di un libro di cui ce ne sono rari, perché sono quei libri che davvero riescono a trasformare per un certo periodo di tempo il modo di pensare o l'atmosfera attorno a una persona o anche il pensiero. Cioè, non mi è successo molto, cioè io ho una lunga carriera di lettrice accanita, però di libri che davvero cambiano l'atteggiamento ce ne sono pochi. Generalmente sono piuttosto dei cambiamenti impercettibili che succedono dentro di noi diciamo al leggere un libro. E quindi questa volta vi parlerò di Mr. Gwyn di Alessandro Barrico. E se vi chiedete qual era l'effetto che mi ha fatto questo libro, l'effetto era, da un lato, per un intero giorno se non di più ero molto più cosciente dei miei stessi movimenti, cioè finivo più gesti, riesco ad essere un po' sbrigativa, penso già al prossimo passo mentre sto facendo qualcosa. E quindi compievo più gesti fino alla fine, ero molto più cosciente dei gesti che stavo facendo. E l'altra cosa è che mi è venuta una grandissima voglia di regalare qualcosa a qualcuno. E secondo me sono dei belli effetti questi. Ed è molto apprezzabile un libro che è capace di adesso magari capite di quel tipo di sensazioni e di cambiamenti cambiamenti parlo. E quindi non vi vorrei rivelare nemmeno troppo, quindi vi dirò soltanto dei spunti di trama. Si tratta di uno scrittore anche di abbastanza successo che ad un certo punto della sua carriera decide di non scrivere più, o piuttosto di non pubblicare più, o di ambedue insieme. E quindi si lascia trapelare che questo perché non è veramente, non si sente molto bene con tutto quello che attorna, diciamo, il mondo degli scrittori, quindi le pubblicazioni, le pubblicità, tutto il lato commercio della scrittura. Si vede che non gli andava più a genio. E quindi quello che cerca di fare è di inventarsi un altro mestiere, e riesce ad inventarsene uno che è bellissimo, che però non ve lo dirò, perché altrimenti scusa, non ve lo posso dire, altrimenti tutta... No, non puoi dirlo. Non posso dirlo. No, non puoi dirlo in separata sede, in bilaterale, come si dice. Laterale, ma soltanto se prometti che questo non ti rovinerà, perché è bellissimo sia il processo per arrivare a questo mestiere, e sia il mestiere così particolare, cioè un mestiere che non esiste e lui se lo inventa per se stesso, e è come un artigiano di quelli, cioè proprio buoni, se li inventa nei minimi particolari, cioè se lo costruisce, e con questo suo nuovo mestiere riesce anche ad avere cioè dei contatti abbastanza speciali con altre persone, e riesce ad avere un effetto sulla loro vita. Ad un certo punto però, in questo suo mestiere, anche lui incontra un ostacolo ed esce di scena, però non senza lasciare dei regali di nuovo abbastanza particolari per i suoi collaboratori, per quelli che per le persone speciali che lo stanno attorniando. E quindi è una bellissima storia, punto, che vi posso raccomandare con tutto il cuore. Ricordiamo nuovamente è Mr. Gwyn di Alessandro Barrico. Alessandro Barrico, che ha scritto anche altri libri bellissimi. Tra l'altro stasera era Filigran, sapete che sono stati tutti tradotti in francese i libri di Barrico? Non me l'aspettavo, sono tradotti anche in ungherese, scusa. Non modo sedetti, ma mia cara, non modo. No, ma veramente sono rimasta. Ma penso che tutti i libri fossero, tutti i suoi romanzi penso fossero tradotti. C'era una colonna intera, non scherzo, dedicata ad Alessandro Barrico. E beh, lui è uno che ha fatto successo all'estero, anche perché, insomma, non mi chiamici il ruolo di Nick 900. Chi? 900. Ah, sì, giusto. Di cui hanno tratto un film, e anche come di Seta film? Hanno tratto il film. Non lo so come si chiamava. No, come si chiamava il protagonista del film? Ah, bella domanda. Si chiamava per caso Nick? No, ma si chiamava Sal. No. Ti ricordi ricordo, Nick 900, un grande Nick 900, purtroppo un artista prematuramente scomparso un bel po' di anni fa ormai, un grande però. No, non mi ricordo come si chiama. Toglimi una curiosità, in che lingua l'hai letto? Questo in italiano, stavolta... Lei legge in lingua originale, potendo. Laddove è possibile. Laddove è possibile. No, ma al di là ecco, io questo volevo capire, Alessandro Baricco è uno che diventa famoso... almeno così a livello diciamo, più popolare, non come scrittore ma come analista di musica classica e anche come coautore di Totem, un bel po' di anni fa, trasmissione in cui partecipava un bel po' di gente, sì. Gianni Allegri, sono stati tanti Gianni, sì però in quel caso era Gabriele Vacis, Allegri e poi c'era anche una giovane, ma non mi ricordo quanto giovane, no, più giovane di adesso, attrice sicuramente. Adesso mi viene in mente, la mia amnesia mi frega sempre, però ecco, no, lui diventa un po' diciamo così, più conosciuto al grandissimo pubblico, era già conosciuto come scrittore ma al grande pubblico con quello, però una particolarità di secondo me di Baricco è quella che le cose scompaiono sotto il naso, cioè uno si immerge nella storia e vive nella storia senza... quasi quasi sembra una realtà scritta piuttosto che una storia raccontata. E invece volevo le tue impressioni su come scrive Baricco. È difficile dirlo, perché secondo me cambia anche un pochino da libro in libro. Cioè, per esempio, prima di tutto lui ha uno stile corto, nel senso che per esempio Seta è un libricino... potresti quasi soffiarlo via dal punto di vista della quantità di pagine che c'è dentro, però è un mondo a sé, e Seta io lo trovavo anche abbastanza lirico, cioè è raccontato in modo molto, molto semplice, però è semplicemente per me trasudava un po' di lirismo. Invece e anche Mr. Green è un po' scritto in questo modo, cioè non... se possiamo dirlo in modo essenziale, non è che lui non sta cercando delle trame secondarie, non sta mai cercando di sviluppare cose che sono magari accanto alla sua storia, si concentra proprio sulla sua storia e quella la racconta in modo non lo so, è difficile dirlo come diciamo in un modo mai esagerato, è una cosa naturale, diciamo, il racconto. E però che però è pieno di idee che fanno pensare, che gli fanno un senso di realtà particolare. Ma poi stiamo cercando le parole, spero che si capisca. Sì, io lo capisco, nel senso che anche condivido. Mi piaceva molto Baricco quando spiegava la musica classica, proprio perché aveva questo modo analitico semplice di spiegare la musica classica, quindi mi piace quello che hai detto, nel senso che da un lato è uno stile semplice, corto, asciutto direi, non secco ma asciutto, e dall'altro però è pieno di, ecco, questo interessante, di trovate, di idee, quindi si riesce a costruire qualcosa di semplice e molto ordinato, se mi concedi la parola. Sì, molto ordinato, quanto Mr. Green, sì. Me. Pulito, è uno stile pulito, e mi ricordo quando spiegava le musiche di Verdi, come erano organizzate e che cosa faceva Verdi, insomma, era estremamente interessante, uno stile che a me è sempre piaciuto, a me di solito i grandi non piacciono quelli troppo conosciuti al pubblico, insomma, cerco di evitarli visto che sono già conosciuti, però in questo caso io farei un'eccezione. Decisamente. Quindi ve lo raccomandiamo. Quindi ricapitoliamo: Mr. Green di Alessandro Baricco. Edito da chi volete, tanto c'è dappertutto. Tanto sì, in tutte le lingue, cioè in francese, sicuramente in inglese, in italiano, in ungherese. sì. Quindi spagnolo sicuramente, quindi avete ascoltato così. Sulle onde di Radio Alma Librangolo a cura di Fiordaliso. Beh, bellino, vero? Sì, una volta tanto riusciamo a chiuderla in maniera veramente. Beh, sì, siamo, ci abbiamo fatto a chiudere. Ce l'abbiamo fatta, visto? Non avevo mai visto bravi. Una serie di chiusura, incredibile. Stasera siamo stati bravissimi. Abbiamo anche il tempo, 3 minuti, per dire qualcosa. Beh, la prima dici tu, che è quella sì, più importante. Allora, tutto. Facendo seguito a quelli che sono stati. Beup! Ecco, lì c'è poi la disputa, se è Beup o Beup. Per me è Beup. Va punto. Bene, Beup. Anzi, per me se vedete in italiano up. È Beup. Per me è Beup. Praticamente c'è questa un'iniziativa che è nata da un privato cittadino, anzi da una privata cittadina che, essendo di origine dell'Emilia Romagna e a causa di quelli che sono stati gli eventi dello scorso maggio, ha deciso di raccogliere dei fondi da destinare alle famiglie dei terremotati proprio della sua regione. Sono tanti gli ospiti che animeranno la serata, da Giacomo Lariccia ad Angelo Gregorio, che avremo il piacere di avere in radio anche prossimamente, il prossimo 5 luglio alla Tentación, dalle 5 del pomeriggio, e pensate un po', al centro gallego proprio di Bruxelles, a Rue de Laeken, quindi a Rue de Laeken 28. Più informazioni possono essere ritrovate proprio sul sito internet del centro, centrogallego.be. Per i minori, quindi per tutti coloro i quali hanno meno di 18 anni, il biglietto è di 12 euro, invece per tutti quanti gli altri è 15 euro. Ricordiamo che i fondi saranno devoluti proprio alle famiglie dei terremotati. Quindi ricordiamo che... Vi ricordiamo che tra i vari, diciamo, sponsor abbiamo la Vite Belga, che salutiamo anche dai nostri microfoni, la Piola Libri, che pure salutiamo, il Parlamento Europeo, che pure si è fatto, diciamo, patrocinante di questa iniziativa, l'azienda agricola Conte Collalto, di Isabella Collalto, che sarà proprio presente alla serata e ci sarà del prosecco, quindi direttamente dall'Italia, le Palais des Sciences. E poi Giorgio, questo tu che sei più bravo di me, come lo leggeresti? Beh, sarebbe Be It. Mi pare anche che ci sia il consorzio del Parmigiano Reggiano. E poi c'è il consorzio del Parmigiano Reggiano, infatti. Quindi insomma la serata si annuncia veramente ricca di con due artisti che noi abbiamo intervistato. Assolutamente. Che sono Angelo Gregorio e Giacomo Lariccia. Quindi insomma avremo modo anche di ritrovarli. Quindi vi raccomando, partecipate numerosi. Insomma, poi il prezzo del biglietto secondo me li vale tutti, anche perché non solo vi divertirete, ma poi contribuirete anche a dare una speranza a quelle povere persone che ormai da più di un mese vivono in caldissime tende. E poi terminiamo ricordandovi che, vabbè, non è l'estate, vabbè, non siamo, come ha detto qualcuno della tele belga al meteo, se pas la Côte d'Azur, sì è vero, siamo a Costa Azzurra, ma il 6 luglio comincia Bruxelles-les-Bains, quindi è un appuntamento classico che le penisce, andarci a fare un giro, perché insomma, secondo me, vale la pena, almeno una volta nella vita. Ciao! E questo vale effettivamente la pena, bisogna farsi una passeggiata, d'altronde hanno copiato Parigi fu il primo ad inventare Paris-les-Bains, vi ricordo quando ci sono stata la prima volta, e poi fui sorpresa, ma forse nemmeno tanto, l'anno dopo, di vederlo organizzato qui a Bruxelles. In chiusura, non me ne voglia da niente, ma va ricordato, Omegang ritorna anche quest'anno, questa straordinaria manifestazione storica che ricorda quelli che furono gli eventi risalenti ormai a un po' di secoli fa, ma al mio amatissimo Carlo V, quindi insomma mi faceva piacere ricordarlo, e vi ricordo che inizia proprio stasera e fino al 5 luglio, e il 5 luglio alla Grand Place sfileranno 1400 figure proprio tipiche di quel periodo, quindi pare essere effettivamente una manifestazione molto amata. Io finora ancora non ci sono riuscita ad assistere, ma spero che quest'anno ci si possa andare. Tutto questo alla Grand Place, quindi giovedì, perché ormai martedì è già andato, quindi tra 2 giorni. Per quanti volessero invece vedere tutto l'evento, invece c'è disponibilità anche domani sera. Io ringrazio Dani M in regia. Grazie a voi. Ringrazio la nostra Fiordaliso, che è sempre prodiga di consigli straordinari. Non so come tu faccia veramente a regalarci ogni settimana chicche così belle e diverse tra di loro. Grazie. Saluto una persona che è stata silente tutto il tempo, perché pare che il silenzio sia la sua arma preferita, che come ormai per i nostri amici affezionati sapranno, siamo a luglio, quindi saluto Federica, che è qui a Bruxelles. Pensavo fosse un affisionato di Harry Potter, silente l'hai chiamato. Totto Harry Potter è tornato, no. No, invece è tornato qualcun altro. Saluta il nostro George. Eccomi, eccomi. Il quale a sua volta saluta come di premate, come di prassi, ma soprattutto come di necessità. Virtù. No, di necessità e basta. Di necessità. Di necessità. La differenza fra necessario e contingente, ecco, questa è la domanda che porteremo a Federica, grande Mary D, senza la quale tutto questo non ci sarebbe. Buona settimana a tutti! Ciao!